And now some more useful language about giving directions. You already know the phrase for on the right. A destra. The opposite is a sinistra. On the left. Ascolti di nuovo e ripeta. A sinistra. And now for the other words and phrases. Sì, le altre parole ed espressioni. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. Guardi. Look. Guardi. Vede? You see or do you see? Vede? Uscendo da... When you leave. Uscendo da... Gira. You turn. Gira. Dritto. Straight on. Dritto. Va dritto. You go straight on. Va dritto. La strada. The street or road. La strada. There's quite a lot of new language there, so take the time to go back and review it. And when you feel confident with it all, then continue with the next section.